Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, quella che contiene, come sanno molti di voi, anche la poco invidiabile classifica del programma. Al di là della classifica, di cosa ci occuperemo oggi, quindi che cosa ci riserva la cronaca della giornata economico-finanziaria, non di mercati, nel senso che oggi non solo Milano, ma tutte le borse europee sono molto tranquille, Francoforte invariata, Londra meno 0,1, l'unica è Parigi, meno 0,50, Milano più 0,1 e devo dire sui titoli, al di là del Monte dei Paschi che continua a calare, meno 4,12%, oggi UbiBanca meno 4,11, BPER meno 2,50, mentre il fronte opposto è rappresentato da Mediaset più 4,30, Leonardo Finmeccanica più 2,30, Telecom più 1,90, Recordati più 1,70, A2A più 1,5, Atlantia più 1,20, Enel più 1%. Dicevo, giornata di attesa, chiaramente per quello che riguarda l'Italia tutta l'attesa è sul referendum, e ricordo ancora che anche Radio 24 seguirà la notte dello spoglio con una diretta che inizierà alle 11 di mattina e terminerà quando avremo i risultati definitivi come diretta speciale, poi dalle 6 di mattina, dell'11 di sera, scusatemi, ho detto 11 di mattina, buonanotte, 11 di sera e terminerà quando avremo i risultati definitivi, e comunque dalle 6 di mattina poi la programmazione rivista per commentare i dati o raccontare i dati, ammesso che alle 6 non siano ancora arrivati. Detto questo, la borsa, le borse e la borsa italiana è complessivamente invariata e tranquilla al di là di alcuni titoli. Ci occuperemo invece di una notizia che è arrivata abbastanza all'improvviso, e mi riferisco al Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare la circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle banche popolari in SPA, ossia quella trasformazione voluta da una legge chiesta dal governo che sta portando alle fusioni e aggregazioni delle banche popolari. Devono trasformarsi in SPA e quindi perdere lo statuto, quelle che hanno più di 10 miliardi di asset, quindi quelle più grandi, e perdere le specificità del mondo delle banche popolari, voto capitario, quota massima di possesso azionario e quant'altro. Però il Consiglio di Stato sospende le misure attuative e si sospende sostanzialmente la circolare della Banca d'Italia, perché dice che c'è lo stop riguarda in particolare la possibilità di non pagare rimborsi per chi sceglie il diritto di recesso. La vicenda riguardava UbiBanca, e non a caso Ubi oggi è, dopo il Monte dei Paschi, la banca peggiore, perché Ubi per esempio ha già effettuato la trasformazione senza versare rimborsi per chi sceglie il diritto di recesso. Ci sono dubbi sulla retroattività della decisione e su quello che potrebbe accadere per le altre popolari, quindi da un lato per chi ha già fatto questa operazione, dall'altro per chi si appresta a farlo. E la riforma infatti prevede, la riforma del 2015 prevede che avessero 18 mesi dal giugno 2015 le banche popolari per trasformarsi in SPA. Sono 10 le banche coinvolte: Banca Popolare, UbiBanca, Popolare Emilia Romagna, Popolare Milano, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, e poi tra le c'è anche il Credito Valtellinese, la Popolare di Bari, la Popolare dell'Etruria del Lazio. Allora, dopo la trasformazione, le banche potranno fissare un tetto del 5% il possesso di azioni di un singolo socio, però al massimo per 24 mesi. Ora, la trasformazione è stata già deliberata da UBI, Banca Popolare, Popolare di Milano, Popolare Emilia Romagna, Creval, Credito Valtellinese, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In alcuni casi l'hanno già attuata UBI e le due venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Quindi insomma, la norma che dice attendiamo una decisione della Consulta, della Corte Costituzionale, per capire se è accettabile costituzionalmente il fatto che non venga pagato un rimborso a chi sceglie il diritto di recesso, vedremo di capire nella seconda ora, ma di fatto blocca e apre molti dubbi sui percorsi in atto. e anche di questo parleremo. Parleremo anche del rapporto Censis che oggi pubblicato individua nel il 50° rapporto Censis sulla situazione del paese, dice che è nata una seconda era del sommerso. L'Italia vive una prolungata e infeconda sospensione dove le manovre pensate in affannata successione non hanno portato i risultati attesi. Un paese sospeso, in sospensione, e la seconda era del sommerso si realizza perché c'è un paese che cerca, che punta alla ricerca di più redditi come arma di pura difesa rispetto al potere d'acquisto, e poi registra il KO economico dei millennials, cioè di chi è nato intorno al 2000. Perché questo? Perché hanno un reddito del 15% inferiore alla media e per la prima volta, questo l'abbiamo già detto anche noi purtroppo, i figli saranno più poveri come reddito e potere d'acquisto dei genitori. E questo sicuramente non è più, i figli più poveri dei nonni oltre che dei genitori. Tra l'altro il Censis fa notare che aumenta anche la quota di contanti detenuta sotto il materasso in molti casi, è aumentata di 115 miliardi la quota, ossia dal 2007 ad oggi il PIL di un paese pari all'Ungheria è finito in più sotto il materasso, cioè questa è la differenza rispetto al 2007, complice che cosa? Complice l'andamento della borsa, lo scarso rendimento dei titoli di Stato e anche molta incertezza sul futuro, per cui uno i soldi non li investe, non li spende, li tiene sotto il materasso. Addirittura il 36% ha sempre contanti in casa e Censis dice, insomma, questo è un'indicazione, è un indicatore fondamentale del fatto che non si guardi al futuro ma solo alla sopravvivenza, diciamo, e alla gestione del breve termine del giorno per giorno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Qualcuno mi scrive: i millennials sono nati tra metà degli anni 80 e metà degli anni 90, insomma sì, diciamo dagli anni 90 in poi soprattutto, però sono i ragazzi che adesso hanno circa 18, 20, 22 anni e quindi calcolo è presto fatto. Qualcun altro mi scrive: anche per colpa delle truffe bancarie che uno non si fida più delle banche. Sì, sicuramente gli scandali di alcune banche hanno sicuramente inciso su questo. Allora, 349-238-6666, dicevo, per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la borsa l'abbiamo detta e poi ne riparleremo, andiamo con le altre notizie di carattere generale, come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Il petrolio continua a salire, non oggi in maniera fortissima, però stabilmente sopra 50, oggi anche 51 dollari al barile. Dati che arrivano dagli Stati Uniti particolarmente buoni sulla disoccupazione: a novembre è scesa al 4,6%, ai minimi dall'agosto del 2007, quindi ormai è un dato che è ampiamente pre-crisi, se vogliamo utilizzare ottobre 2008 come il momento culminante dello scoppio della crisi con il fallimento di Lehman Brothers. Dicevo, l'America è tornata a dati sulla disoccupazione precedente alla crisi, il tasso di disoccupazione scende dal 4,9 al 4,6%, e la Casa Bianca fa notare, anche perché è in via di abbandono la Casa Bianca di Barack Obama, fa notare che l'economia americana dai primi mesi del 2010 ad oggi ha creato 15 milioni e 600 mila nuovi posti di lavoro. La disoccupazione non è mai stata così bassa dalla recessione. Poi il tema è, e l'abbiamo affrontato anche durante il commento alla elezione di Trump, che questi dati belli e particolarmente positivi presi in maniera aggregata poi non fotografano un'altra realtà, e cioè che è vero che si è creata occupazione, ma occupazione con salari più ridotti, è aumentata in molti stati la forchetta, la forbice tra chi ha avuto di più e chi, cioè quindi chi si è ulteriormente arricchito e chi invece ha dovuto accettare lavori non solo con un salario più basso, ma anche con una precarietà più alta. E quindi in parte questo giustifica la reazione dell'elettorato americano che ha preferito Donald Trump, però insomma il dato obiettivamente è un dato preso complessivamente totalmente positivo. Mentre per quello che riguarda l'Italia, oggi lo spread è a 165 punti, il tasso dei BTP a 10 anni è l'1,98%, cioè non è uno spread sui 180-182 punti, è sicuramente un po' più alto di qualche mese fa. Ecco, dire che questo spread sia preoccupante, starei molto attento. Il New York Times torna sul referendum italiano, dice che l'ondata populista minaccia di schiacciare il governo Renzi, di far sprofondare l'Italia in una crisi politica in un'Europa che già vacilla. Il prossimo tassello del domino a cadere sotto la rabbia del populismo potrebbe essere l'Italia. E anche Wall Street Journal sottolinea come dall'esito del referendum dipenderà il destino di Matteo Renzi e la sopravvivenza del suo governo. Devo dire che anche qui siamo analisi abbastanza ovvie e scontate. Sul New York Times faccio notare che dopo la cantonata totale presa nei confronti delle elezioni di Trump, non è che io abbia letto tutta questa cioè va bene dire populismi rabbiosi, ok, ma chiediti anche perché, nel senso che sennò sembra quasi che tu continui a dire che non dovevano andare così le cose. Ma ha vinto Trump, non abbiamo questo riguarda più gli Stati Uniti, il New York Times sta continuando una campagna molto dura, puntuta nei confronti di Trump, non abbiamo visto una riflessione su questo da diciamo una riflessione anche un po' di autocritica da parte del New York Times, non avrei saputo leggere evidentemente quello che stava capitando all'elettorato americano. E anche il Financial Times, altro giornale che non aveva letto né la Brexit né Trump, occhi ancora puntati sull'Italia, un commento non firmato che esprime quindi la posizione, essendo appunto un editoriale non del quotidiano, l'Italia ha bisogno di riforme ma la priorità è la stabilità. E Financial Times dice Renzi dovrebbe rimanere a prescindere dal risultato del voto di domenica. Devo dire che l'articolo non risparmia critiche a Matteo Renzi, soprattutto per il calcolo sbagliato di far sì che il voto diventasse un test sulla sua persona. Poi però il Financial Times fa l'elenco degli di quelli che sarebbero le conseguenze del no, dei rischi del no e delle dimissioni di Renzi, dice che sostanzialmente sarebbe peggio la dimissione di quanto è stato, pur riconoscendo che Renzi è stato un riformatore imperfetto e ha cercato però di imprimere un nuovo corso all'Italia. Nella migliore delle ipotesi, se cade Renzi, dice il Financial Times, l'Italia sarà lasciata con governi tecnici e senza ambizione e gli investimenti diminuiranno e continuerà il lento declino. Insomma, vabbè, la posizione del Financial Times, ripeto, io non ho letto posizioni analoghe quando la Gran Bretagna votò la Brexit, consigli ai britannici su cosa fare. Vabbè, ma la stampa britannica ci ha abituato a darci lezioni ex cattedra, però poi deve anche scendere dalla cattedra e anche nel caso del Financial Times cercare di andare oltre e raccontarci perché l'ondata che loro chiamano populista ha così tanta presa, che se no l'analisi è imparziale. Comunque sulle oggi i mercati sono tranquilli ed è l'ultima giornata di borsa, si sta chiudendo pre-referendum. Sappiamo che veniamo da un periodo invece in cui i mercati sono stati molto in altalena in un senso o nell'altro, lo spread ha avuto qualche tensione, è arrivato fino a 180 punti. Su tutti gli effetti che ha avuto sui mercati, sulla speculazione soprattutto, perché chi se ne è avvantaggiato moltissimo è stata la speculazione, sul settore bancario italiano e in generale sul settore bancario europeo, ecco, su questi effetti si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti, trasmessi, lo ricordo, anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Un'altra giornata di passione sui mercati finanziari e soprattutto per le banche, le più esposte non soltanto al ciclo economico e alle incertezze della ripresa, ma soprattutto alle incertezze della politica. Il referendum italiano continua a tenere banco sui mercati e soprattutto a noi vengono attribuite delle colpe che probabilmente non sono nostre. L'alibi del referendum viene infatti utilizzato dagli speculatori per giocare a ribasso sui titoli bancari europei, attribuendo appunto a noi una responsabilità che in realtà, se guardiamo la salute delle altre banche europee, da Deutsche Bank a Royal Bank of Scotland, due colossi di portata mondiale, non stanno affatto meglio di noi e anzi, semmai, sono elementi di destabilizzazione del mercato. Ma la cosa più fastidiosa è venuta proprio dall'Inghilterra. Pochi giorni fa il governatore della banca centrale ha detto infatti che le banche inglesi dovranno accantonare quasi 50 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni per far fronte alle spese legali legate alle cause mosse dai risparmiatori e dagli investitori per reati, dalla commercializzazione dei prodotti finanziari a manipolazioni dei tassi. Come dire, mentre noi ci stiamo preoccupando di tenere in piedi un sistema bancario, c'è il sistema bancario forte d'Europa che è costretto a pagare decine di miliardi di euro o di dollari per le cause mosse dai risparmiatori. Sarebbe forse il caso di mettere questi soldi, quelli delle multe, in un fondo dedicato alle ricapitalizzazioni delle banche che non hanno mai commesso reati internazionali o reati finanziari? Sarebbe ora che l'Europa cominciasse a pensare che le banche sane potrebbero essere ricapitalizzate da quelle che hanno comportamenti scorretti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Adesso arriviamo alla classifica, oggi ce n'è ragazzi, però ancora due notizie. In breve, per quello che riguarda il Monte dei Paschi, sono attesi per le 19 i dati sull'adesione alla proposta di conversione delle obbligazioni. Il titolo adesso perde 5,40%, no comment in Unione Europea sull'ipotesi di nazionalizzazione. E invece oggi il presidente dell'ACRI Giuseppe Guzzetti ha detto il Monte dei Paschi non deve assolutamente fallire. Su Unicredit si è saputo oggi di un incontro in mattinata nella sede tra le fondazioni azioniste e l'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier con il presidente Giuseppe Vita in vista del piano strategico che Unicredit svelerà il prossimo 13 dicembre a Londra. Sul fronte invece del Censis, vedo molti messaggi, parleremo dopo, vorrei invece ricordare che cosa è successo oggi durante la presentazione di quella che sarà la 16ª lezione Angelo Costa, perché quest'anno è affidata all'economista di Harvard Danny Roderick, che si sofferma sui rapporti tra politica, economia e sui ruoli delle parti sociali, degli attori sociali per combattere e ridurre disuguaglianza e povertà. Su questo presentare è intervenuto poi alla 16ª lezione Angelo Costa, il presidente Confindustria Vincenzo Boccia ha ricordato come insomma la lezione che arriva anche oggi da Danny Roderick è abbastanza semplice, cioè solo la crescita, una crescita robusta può essere la precondizione per ridurre disuguaglianza e povertà. La crescita è una precondizione per combattere diseguaglianza e povertà, va vista sia in chiave di questione nazionale, quindi questione italiana, e sia in chiave di questione europea e questione globale. L'importanza del manifatturiero viene sottolineato dal professor Roderick, ma anche l'idea di come costruire questi ponti, sia con una politica economica coerente nel paese, l'idea anche del famoso scambio salario produttività che stiamo portando avanti con le organizzazioni sindacali va in questa dimensione, più occupazione, più investimenti, più salari, ma c'è anche un'altra idea che va oltre il paese. La questione che stiamo ponendo con le Confindustrie dell'area del Mediterraneo che abbiamo incontrato in questi giorni in occasione dei dialoghi mediterranei è quella di costruire un partenariato per il cosviluppo, che significa avere un modello di pensiero interno e esterno al paese nell'interesse di tutti e non contro qualcuno, mettendo le persone al centro. Le persone non sono solo gli italiani, sono una questione di rispetto di una società diversa, moderna, che include e che non esclude. Tre che più, La classifica della settimana. Allora, andiamo subito al quinto posto. Anzi, però devo dare una buona notizia. Qualcuno si ricorderà perché, insomma, a mio avviso, quando faremo il Pantheon o la top 5 della top 5, oltre a l'assenteista attore porno a sua insaputa, oltre ai 18 processi per l'avvocato che da ubriaco abbatte col suo fucile ad aria compressa un piccione, vado a memoria, oltre alle caprette utilizzate dalla Marina Militare per sfoltire l'erba che poi si sono accoppiate, però creando un casino anche dentro la caserma a Taranto, devono mangiare l'erba, vado sempre a memoria. C'è anche un altro così elemento e soprattutto un'altra notizia di questa classifica che potrebbe andare nella top 5 della top 5. Immagino che alcuni di voi ricorderanno la vicenda del Termoli Jet, il jet comprato per 8 milioni di euro, scusatemi, con i soldi pubblici dal Molise, dalla regione del Molise, che doveva collegare in una rotta nuova il Molise con la Croazia, con l'obiettivo di portare i pellegrini a Međugorje. Cioè, non sto scherzando, per chi non l'avesse persa non posso rifarla tutta, ma è veramente così, Cioè, c'è il corridoio 5, corridoio 8, c'era anche il corridoio salvezza verso Međugorje. Ovviamente il Termoli Jet è chiaramente un aliscafo mai utilizzato, rimasto fermo lì, non sono riusciti a fare nessun tipo di convenzione. I pellegrini che volessero fare dal Molise alla Croazia non se ne trovavano per Međugorje, perché già uno che va a Međugorje è uno messo male, cioè messo male, è uno che ha qualche problema, per di più se lo fai viaggiare anche con il Termoli Jet è accanimento. Allora, la notizia l'avevamo data perché questo jet, questo aliscafo restava fermo lì, nessuno lo voleva comprare. La buona notizia è che è arrivato un compratore, nonostante il concordato preventivo e le tre aste pubbliche andate deserte, perché è arrivata un'unica offerta che immagino la regione Molise accetterà. Un gruppo sudcoreano ha messo sul tavolo 1.600.000 euro, il prezzo base era 1.500.000, però come dicono a Milano, piuttosto che niente, meglio piuttosto. E quindi, pagato 8 milioni, adesso riusciremo, se tutto va bene, perché l'acquisto deve essere perfezionato nei prossimi tre mesi, a venderlo ai sudcoreani, immagino non per una rotta Seoul-Međugorje, sarebbe un pochino lunga, ma immagino che ne faranno un altro uso. Comunque, almeno 1 milione e 8 su 8 milioni la regione Molise li recupera, dopodiché la invitiamo a smettere, diciamo, a individuare come un tour operator nuove rotte. Partiamo al quinto posto, invece qui c'è, se vogliamo, non una buona notizia, ma almeno un'evoluzione di una notizia, perché il GUP del Tribunale di Bari, Anna Chiara Mastrorilli, ha rinviato a giudizio l'ex amministratore unico di Ferrovie del Sud-Est, Luigi Fiorillo, su cui noi abbiamo fatto puntate intere, perché lui era il dominus delle Ferrovie del Sud-Est, e altri quattro imputati su due presunte truffe ai danni della regione Puglia. La vicenda riguarda l'acquisto in due commesse di 52 vagoni pagati complessivamente più di 115 milioni di euro, ma secondo la magistratura barese ci sono 23 milioni che ballano, cioè pagati in più rispetto al prezzo di mercato. Quindi rinvia giudizio per le truffe, escludendo però l'aggravante della transnazionalità, e non luogo a procedere invece per i reati fiscali contestati a Fiorillo. Assieme a Fiorillo saranno processati dinanzi al Tribunale Monocratico di Bari dal prossimo 9 maggio Nicola Alfonso, responsabile tecnico delle Ferrovie del Sud-Est, Giuseppe Ficcadori, rappresentante legale di Rail Consulting, Marco Mazzocchi e Carlo Beltramelli, che all'epoca erano rispettivamente rappresentante legale e procuratore speciale della società polacca, perché questi sono polacchi come vagoni, la Varsa SP Zoo di Varsavia. Assolti invece con rito abbreviato, perché il fatto non costituisce reato, i due imputati che avevano chiesto il rito alternativo, Thomas Zaboklicki e Siegfried Franciszek Zurawski, ma i polacchi hanno i nomi, rispettivamente presidente e membro del direttorio della società polacca Pesa Bydgoszcz. Ragazzi, ma ce l'avete con me oggi in regia, no? Allora, perché il fatto non costituisce reato? No, faccio notare che le Ferrovie del Sud-Est sono abituate a fare acquisti strani, un po' costosi all'estero, perché raccontammo dell'acquisto. Voi sapete dov'è la Turgovia? No, perché le ferrovie del sud-est sono riuscite a comprare, non sto scherzando purtroppo, tre treni che erano il cui utilizzo era previsto nel cantone svizzero di Turgovia. È una cosa quasi, ricorda un po' il Principe Dracula, anche se quella era tutta un'altra regione, ma è la regione del Baden-Württemberg in Germania. Piccolo problema, le ferrovie del sud-est hanno comprato questi treni pagandoli nel 2010, tra l'altro erano pure usati, 5,6 milioni di euro. Non hanno mai trasportato un passeggero per un dettaglio, perché non erano stati sviluppati per essere omologati e messi in servizio in Italia. Un dettaglio quando compri un treno. Nello specifico erano e sono senza impianti di climatizzazione e con i finestrini sigillati. Te credo, perché in Turgovia e nel Baden-Württemberg fa fresco, freddo, d'inverno soprattutto. Invece in Puglia un po' meno. La conseguenza è che se tu metti d'estate dei passeggeri in un treno con i finestrini sigillati, senza aria condizionata, o è un nuovo modo per snellirsi in vista della prova costume, o lo uccidi proprio sto passeggero, ok? Allora, e tra l'altro la cosa interessante, i tre treni, per questi tre treni le ferrovie del sud-est pagano ancora 440 mila euro l'anno in leasing e lo faranno fino al 2021. Vabbè, tanto quello era un gruppo pazzesco, perché l'ex numero uno Fiorillo ha fatto 23 anni e tra il 2000, come amministratore unico, tra il 2006 e il 2012 aveva percepito 48 mila euro l'anno per come 240.000 euro totali, che sarebbe anche poco, ma il suo compenso effettivo ha raggiunto in quegli anni 13.750.000 euro, cioè 1.145.000 euro all'anno per 12 anni, perché oltre a essere amministratore delegato, Fiorillo aveva anche un contratto da co-co-co. Ma voi avete mai visto in un gruppo l'amministratore delegato che è anche co-co-co? Da 2004 al 2006 era un bel co-co-co. Era un co-co-co-co, perché ha guadagnato 7 milioni e 160 mila euro tra 2004 e 2006, cioè 2 milioni e 4 all'anno. Io non so quanti co-co-co guadagnino 2 milioni e 400 mila euro all'anno. No, è vero che è un contratto utilizzato per la flessibilità, ma insomma, io dico, ma dopo Ciucci dell'ANAS, che era riuscito a fare causa a se stesso da amministratore delegato e direttore generale, ne mancava proprio un amministratore legato che si fosse fatto anche un contratto da co-co-co. Vabbò. Oh, tardi, andiamo sul meteo, pubblicità, poi andiamo al quarto, terzo, secondo posto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, andiamo. Eccoci. Andiamo alla classifica della settimana. Allora, andiamo, posso entrare? Grazie. Andiamo al quarto posto. Devo dire che un ascoltatore scrive rispetto al contratto da co-co-co di 2 milioni e 400 mila euro l'anno dell'ex numero uno delle ferrovie del sud-est, Fiorillo, era un contratto meco. Vabbè, ho capito la battuta. Invece non capisco, c'è un ascoltatore che mi sta massacrando perché avrei offeso chi va a Međugorje. Ho solo detto che già uno che va a Međugorje ci va perché ha dei problemi o vuole risolvere dei problemi, crede nella possibilità di risolvere dei problemi andando a Međugorje. Mi sembrava un'inutile tortura farlo montare su un aliscafo in Molise per attraccare in Croazia e poi da lì a Međugorje. Comunque, quarto posto, io non so cosa stia capitando, ma oggi la Polonia la fa da padrone, perché al quarto posto, faccio molto veloce, abbiamo messo di nuovo l'ATAC, poi faremo anche un'intervista a chi ha scritto un libro bellissimo sull'ATAC, sono tutti i consigli per l'attuale sindaco Raggi, come li davamo prima a Marino. Andate a fare un raffronto a perimetro invariato tra l'ATAC e la TM di Milano, perché non è vero che le municipalità non possono guadagnare. Guardando i bilanci, abbiamo l'ATAC che brucia, lasciamo stare il debito dell'ATAC che è stratosferico ancora, perché siamo a 1 miliardo e 350 milioni contro i 700 milioni dell'ATM, però il problema è l'esercizio, diciamo, anno su anno, perché l'ATAC brucia risorse e soldi della collettività, 80 milioni ha perso l'anno scorso, no? Poi giustamente si blocca il trasporto venerdì scorso a Roma per lo sciopero di un sindacato minore, va bene così. L'ATM ha fatto utili per 23 milioni, quindi non è vero che il trasporto pubblico non possa generare utili, dipende come lo gestisci, dipende se ci piazzi figli e amici, se diventa un modo per sistemare o un, diciamo, anche un centro di consenso elettorale. I dati comunque li hanno comparati varie associazioni, tra cui la Fondazione Einaudi, e andando al perimetro invariato, dicevo, le vetture dell'ATM a Milano hanno percorso l'anno scorso in media 184 chilometri contro i 150 chilometri di ATAC, non è poco, L'ATAC ha soppresso oltre 650.000 corse l'anno scorso a Roma, per lo più a causa di guasti, pure lì sappiamo cosa succedeva sulla manutenzione. Ancora, l'ATAC ha 12.000 dipendenti contro i 9.700 dell'ATM a Milano, però produce meno e costa di più, appunto 1 miliardo e 56 milioni contro 1 miliardo e 36 milioni, e incassa di meno. Qui c'è anche un'altra cosa incredibile: l'ATAC riesce a incassare 986 milioni contro 1 miliardo e 56 milioni, sono 300 milioni in meno quasi. Della 30 milioni in meno della contro ATM. Ma cosa succede? Cosa interessante è questa: l'ATM dalla pubblicità sui mezzi ricava quasi 19 milioni di euro l'anno, l'ATAC appena 7 milioni e 600 mila euro. Ma com'è possibile? Hai più mezzi, più percorso come valore assoluto e ricavi quasi un terzo di ricavi pubblicitari sui mezzi dell'ATM. Vieni a Milano e vieni a imparare come si fa. Le multe, e questo è scandaloso, all'ATM valgono 8 milioni e l'ATAC, pur avendo un'evasione di biglietti, un'evasione tariffaria ben più alta di Milano, siamo al 40%, riesce a incassare solo un milione, cioè un ottavo di quello che... Allora vuol dire che i controllori non fanno i controllori, perché hai un alto tasso di infedeltà che arriva al 40% e riesce a incassare un milione contro gli 8 milioni di Milano, manda fuori i controllori e fagli fare il loro lavoro. Poi le assicurazioni: l'ATM spende 9 milioni e 650 mila euro l'anno in assicurazioni, l'ATAC spende 25 milioni. Ma come? Viaggiano di meno e costano il triplo di assicurazione, è veramente una roba pazzi questa. E tra l'altro le polizze sono spesso di ADIR, società del Comune di Roma, altra società che è finita al centro degli scandali pure nostri per sprechi e anomalie nei bilanci. Terzo posto, torniamo in Polonia. Io non so cosa abbia la Polonia, stupido. Comunque, in Polonia, alla Polonia si è rivolta la regione Campania. Perché? Perché ha comprato degli autobus, 23 per la precisione, se ho ben visto il numero, 23 autobus usati, costano 1.200.000 più IVA, non costano tantissimo, circa 50.000 a mezzo, sono categoria Euro 5, marca Solaris, e sono gli autobus che i viaggiatori utilizzano tra Napoli e Pozzuoli. Ora, qui si apre un dubbio, e chiedo anche aiuto agli ascoltatori: un autobus con 600.000 chilometri è tanto o poco? Non lo so veramente. Un'auto te la regalo a 600.000 km. Un autobus non lo so. Hanno tutti 7 anni di vita e serviranno all'ente autonomo Volturno, EAV, che è la società che trasporta 60 milioni di viaggiatori l'anno, e anche sulle malandate circumvesuviana e circumflegrea cumana, e ha 700 milioni di euro di debiti. Lo dico perché veramente il dubbio ce l'ho, non è una battuta. I sindacati, l'USB nazionale, dice, ma insomma, che stato è quello in cui un cittadino di Milano sale su un mezzo nuovo e a Pozzuoli si accontenta di uno con 7 anni di vita? Beh, potrei aggiungere ai sindacati, è uno stato in cui alcune regioni sprecano col malaffare clientelare e altre sprecano un po' meno, abbia pazienza, e quindi se la prenda anche con chi ha gestito e con i suoi sindacati che non hanno denunciato, non avessero dovuto denunciare. Ma il tema è vero, perché il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, dice: con i fondi che avevo, PAC, fondi europei, potevo esclusivamente comprare mezzi usati. Allora la scelta era: compro 7 autobus nuovi e basta, o ne compro 23 usati da che hanno 7 anni di vita e 600.000 km? Io il dubbio ce l'ho, onestamente, perché capisco anche la differenza. Insomma, hai 23 autobus con un servizio maggiore, certo un po' usati, speriamo che non si rompano. Ecco, l'unica cosa che potrei aggiungere, se questi 600.000 km diventano un elemento per rompere gli autobus, mi sembra un po' tanti 600.000 km. Ha fatto il giro tutta la Polonia questi. Comunque, ci vorranno altri 50 giorni per vedere i bus in azione. Gli altri 30 bus battezzati dal presidente della Campania De Luca a ottobre entreranno in funzione a dicembre, ma di De Luca parleremo anche dopo. Adesso vado sul traffico. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presento Focus Economia. Oh, andiamo al secondo posto della classifica. Devo dire che moltissimi ascoltatori stanno scrivendo sugli autobus con 600.000 km comprati dalla regione Campania, e la maggior parte, la stragrande maggioranza, mi dice che non sono tanti, quindi ne prendo atto, che sono a metà della loro vita, 1.000.000-1.200.000 km, e che quindi, e tra l'altro uno mi scrive anche che conosce benissimo l'azienda che produce quegli autobus, sono anche migliori forse dei nostri. 600.000 km per un autobus sono come 60.000 per un'auto. Sì, ci starebbe nel rapporto, visto che un'auto a 120-140.000 km inizia a avere, essere un po' vecchiotta, un po'. Però va bene, prendo atto. Infatti il dubbio era vero, quindi hanno torto i sindacati. Poi molti mi scrivono: attenzione, dipende anche dalla manutenzione, però 600.000 km non sono una cifra enorme. Bene, contento, meglio 23 autobus con 600.000 km che 7 nuovi. Andiamo al secondo posto, dove mettiamo la regione Puglia. Poi dopo il GR24 vi do il primo, che è spettacolare. Questo anche rischi di entrare nella top 5 della top 5. Allora, 126 milioni di buco in regione Puglia per i bolli auto non pagati, oltre che per le spese mediche extra. 50 milioni sono per costi molto alti anche di farmaci salvavita, e lì può aver ragione la regione nel dire le aziende ci strangolano, le aziende produttrici. Però la cosa interessante, tant'è che hanno dovuto fare in regione Puglia una variazione di bilancio sul fil di lana, il termine ultimo infatti era fissato al 30 novembre e il giorno prima hanno fatto una variazione di bilancio. No, la cosa incredibile è che ci sono 116 milioni di bolli auto mai incassati in Puglia. Allora, governatore Emiliano, lei ha dovuto mettere una pezza sui conti e poi ha siglato il piano sanitario che stanzia 30 milioni in più per il polo di Taranto. Però io le chiedo, un po' come il tema dei biglietti, dei controlli che non riesce a fare l'ATAC, 8 milioni a Milano, dicevamo 1 milione e basta a Roma. Ma com'è possibile che in Puglia ci siano 116 milioni di euro a bilancio di crediti di dubbia esigibilità per il mancato pagamento del bollo auto? Praticamente è come se su ognuno dei 2.800.000 veicoli in Puglia ci fosse un debito di 42 euro. Ma chi cavolo paga il bollo auto in Puglia? E tra l'altro i tecnici della regione dicono: è facilissimo individuare l'evasione, non è un problema capire chi non ha bollo auto. Il problema è che è quasi impossibile riscuoterla. Perché? Perché in altre regioni si riesce? Negli ultimi anni soltanto il 20% del pregresso viene recuperato attraverso gli avvisi di pagamento, il resto è evasione fiscale, per cui la regione ha dovuto coprire l'80% di questi 116 milioni versando 90 milioni nel fondo di accantonamento. Poi, e vado a chiudere, ci sono anche 10 milioni di oneri extra dovuti ai maggiori costi registrati per il potenziamento dell'assistenza sanitaria sul territorio, ossia il passaggio alla ricetta elettronica comporterà un fiume di denaro negli studi dei medici di base pugliesi, perché devono formare sui nuovi dispositivi infermieri e assistenti. Cioè, un provvedimento che doveva semplificare costerà 10 milioni di euro in più. Andiamo sul GR24 e poi andiamo al primo in classifica. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Non ascoltare quando ti parlo della nuova Mini Clubman. Non ascoltare quando ti parlo del super ammortamento del 140%. Non ascoltare quando ti dico che ora la puoi avere con la nuova trazione integrale All 4. Non ascoltare. Restare ad ascoltare non ti farà concludere questo affare. Questo non è il momento di ascoltare, è il momento di agire. Nuova Mini Clubman. Ragiona distinto. Scoprila con offerta dedicata ai clienti business, nelle concessionarie Mini o su mini.it. Sono Marco e il parmigiano reggiano 30 mesi è il meglio per me. Ma il mio meglio ha origine da Dario, che ogni giorno fa il parmigiano reggiano. Il mio meglio è fatto da sempre senza conservanti, perché le mucche mangiano come foraggi solo fieno ed erba, come dice il consorzio. Per questo è il meglio per Marco e anche per te. Parmigiano reggiano, meglio il meglio. Vai su meglioilmeglio.com e vinci una forma di parmigiano reggiano. Vale fino al 24 dicembre 2016. Montepremi 1126,72 euro più IVA. Regolamento sul sito. Se stai cercando agenti o commerciali, agenti.it pure a Natali. Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Pure a Natali. Freddy, le merendine sotto le 100 calorie, tutte da gustare senza sensi di colpa. Buon dolce, con la sua morbida crema al latte fresco, oppure dolcetto, senza lattosio. E da oggi anche chic, la merendina senza olio di palma. Cosa propone il menù? Primo di contabilità, secondo di magazzino e una classica fatturazione. Il tuo software è la solita minestra. Passa a Business, il gestionale di NTS Informatica per i palati più esigenti. Il gestionale è servito. Visita ntsinformatica.it. Gli anni 60, i miei ricordi felici di bambina quando andavamo all'alimentare. Incontravamo sorrisi, profumi deliziosi, le cose più buone perché scelte con cura. E oggi, come ieri, la stessa qualità. I prezzi sempre migliori. Supermercati Alì. Il tempo passa, la passione resta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti, andiamo al primo posto della classifica. Devo dire che molti mi stanno segnalando in merito al secondo posto, ossia il fatto che la regione Puglia, il governatore Emiliano non ha niente da dire su questo, insomma non riesca a incassare il bollo auto. Mi fanno notare che in molte altre città e regioni si arriva dopo poco, qualche anno, al blocco del mezzo. Insomma, è veramente incredibile, perché io dico, capisco tutto, ma uno non può rassegnarsi al fatto che in Puglia la regione debba ripianare 126 milioni di buco da bolli auto. Ripeto, sono 46 euro a automobilista pugliese, 42 euro scusatemi, se, dividendo per la cifra totale per i 2.800.000 veicoli circolanti in Puglia, e deve ripianare con 90 milioni di un fondo d'accantonamento che magari servivano per qualcos'altro in regione, no? Esiste il fermo dell'auto, no? È così difficile, boh. Allora, però per non pensare che attacchiamo, adesso non c'entra nulla, ma so che qualcuno farà il ragionamento, ecco Emiliano che vota per il no, tanto questo paese si parla solo di no e di sì, andiamo al primo posto della classifica e vedrete che involontariamente, assolutamente involontariamente, siamo in par condicio anche in questo caso. And the winner is... la regione Campania, o meglio, la... dissonanza cognitiva, come dicono gli psicanalisti, dell'attuale presidente De Luca, il quale deve un po' chiarirsi con se stesso e capire se, e decidere se l'aeroporto di cui sto parlando è un aeroporto strategico oppure no, perché lui è passato da definire lo scalo salernitano il più inutile d'Italia o ad avere obiettivi. L'aeroporto in questione si chiama Costa d'Amalfi, adesso ad avere obiettivi per lo stesso aeroporto di 4 milioni di passeggeri nell'arco di 5-7 anni, tant'è che Roberto Vergari, direttore della vigilanza tecnica dell'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, dice: ma chi ha dato queste cifre a De Luca? Il piano di sviluppo prevede un massimo di 1,5 milioni di passeggeri, ma in 20 anni 4 milioni di passeggeri, ma neanche se... Però la cosa interessante non è la previsione di De Luca. De Luca era fermamente contrario a questo scalo, ma allora, per l'ENAC è un aeroporto certificato, per il Presidente della Repubblica Mattarella è uno scalo strategico di interesse nazionale, il Governatore della Regione Campania ci ha appena investito, quindi De Luca, 2,5 milioni di euro, e quello della Basilicata ne investirà quasi altrettanto. Stiamo parlando dell'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano. Ora, uno può anche dire, cioè può anche avere un senso, penso a Trapani rispetto a Palermo, avere un aeroporto che dove volano magari compagnie low cost o compagnie comunque simili ai low cost, o anche compagnie non low cost, perché sei a Salerno Ponte Cagnano e vuoi sfruttare tutta la costa, la bellissima costiera amalfitana. Su Capri la vedo più difficile perché è più comodo Napoli, Capodichino. Però insomma, il problema è che cosa ne è di questo aeroporto. Allora, io spero che l'ISIS non ci ascolti, e lo dico seriamente, perché sto per raccontare di un aeroporto in cui alcuni varchi lungo il perimetro dell'aeroporto Costa d'Amalfi di Ponte Cagnano non funzionano e restano aperti per la rottura di un cancello. Vi rendete conto qui? Altro che la lotta all'ISIS. E le garitte per la sorveglianza sono vuote, non ci sono soldi per potenziare la vigilanza, può entrare chiunque anche di notte, si può entrare con l'auto. Che facciamo stasera, cara? Andiamo a fare un giro all'aeroporto di Ponte Cagnano Costa d'Amalfi, e perché no? Magari trasformato in un parcheggio dell'amore, che ne so. Allora, ci si può entrare anche di notte, si può entrare con l'auto, c'è uno spiazzo sterrato con vecchi mezzi dell'esercito, carcasse di auto abbandonate, sembra un set di un film. E sulla pista di decollo barra atterraggio ci sono alcuni aerei parcheggiati ai margini, giusto per dire dove li metti, li metti lì. Elicottero del Corpo Forestale dello Stato, mezzi dei Vigili del Fuoco. Si può addirittura entrare in un bimotore posizionato proprio sotto la torre di controllo, pronto per il decollo. Uno porta anche il figlio, vuoi montare su un bimotore? Vieni a vedere il bimotore. Ora, l'infrastruttura dell'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano Costa d'Amalfi è già costata 9 milioni di euro, a cui vanno aggiunti gli incentivi dal 2008 al 2012 che hanno messo le varie compagnie aeree, che sono stati dati alle varie compagnie aeree per convincerle a atterrare a Salerno. Please do land in Salerno, come diceva Rutelli. Tra queste spicca l'Italia, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Costa d'Amalfi nel 2010 stipulò un accordo da 3 milioni e 800 mila euro, chiedendo con questo incentivo di effettuare due rotazioni giornaliere da Salerno a Milano e una verso Roma. Si erano dimenticati che la pista era un po' troppo corta, appena 1,5 km, quindi gli aerei più capienti non ci possono atterrare, quelli che giustificherebbero anche l'investimento. E infatti l'Italia, col cavolo che è andata a Salerno, ci ha messo una compagnia collegata, la Air Alp, con un Dornier 328, ossia un bimotore di linea regionale a due eliche, che magari su Milano andava benissimo, ma insomma. Infatti ha terminato le sue corse dopo 16 mesi. Ora, il presidente dell'aeroporto Strianese, Augusto Strianese, presidente dell'aeroporto dal 2002 al 2009, dice che quell'aeroporto fu voluto fortemente dalla politica salernitana. I politici presero direttamente accordi con l'Italia. Ma pensate questa. Prendono gli accordi con l'Italia in questo modo. C'era una campagna pubblicitaria che proponeva voli da Salerno a Milano al costo di 49 euro. C'era un piccolo problema. Il contratto stipulato stabiliva che su 32 posti disponibili i primi 22 andassero a remunerare l'Italia. I restanti passeggeri rappresentavano il guadagno del consorzio che gestiva lo scalo. Quindi, dopo un certo numero di clienti, il prezzo schizzava. Tu che numero sei? Sei il numero 20, perfetto. Arrivavi a essere il numero 23, sapete quanto costava il volo? 600 euro. Salerno-Milano, Milano-Salerno. Faccio notare che con 600 euro, se compri un po' prima, vai a New York. No. Magari? Anche con meno? Allora sono io che compro troppo tardi, mi dicono in regia che si va anche con meno, me ne farò una ragione, però diciamo che con 600 euro arrivi a New York, ok? Allora, e questa è la cosa. Tra l'altro praticamente nessuno prendeva i voli e i posti vuoti, perché quando ti propongono con 600 euro di andare a Milano, dici mi prendo un autista e faccio prima. Poi, tra l'altro, prima di Alitalia c'era un altro vettore, Air Dolomiti, gruppo Lufthansa, che sembrava aver portato qualche risultato, però la politica salernitana spinge per chiudere il contratto con Air Dolomiti, aprirlo con Alitalia. L'Italia poi fa sapere che è cambiata la struttura societaria, quindi ciao al contratto, e quindi negli anni l'aeroporto Costa d'Amalfi aumenta le perdite, nessun volo di arriviamo ai giorni nostri, cioè il completo pantano che raccontavo prima, nessun volo di linea, non parte niente. Ecco qua, un ascoltatore mi diceva: ho appena comprato Londra-New York per 499 euro. Ho capito, ma vuol mettere decollare dalla costa amalfitana e arrivare a Milano? La Milano da bere? 600 euro. Comunque, dicevo, nessun volo di linea, all semi deserta, costi esorbitanti, L'ultimo bilancio vede una perdita di 2.600.000 euro, ma è un bilancio vecchio, nel 2009 era già a 3.700.000 la perdita. Però, fanno notare, abbiamo mantenuto l'occupazione salvando i 25 posti di lavoro che ruotano attorno a questo impianto. Sì, ho capito, ma la principale voce di spesa è proprio relativa alla security e alla vigilanza, 500.000 euro. Ma che cosa vigilano? Boh, non si capisce. E poi c'era tutta la polemica tra De Luca, allora sindaco di Salerno, e Bassolino, sindaco di Napoli. De Luca voleva che la gestione fosse di Salerno, anche per un contrasto con Bassolino. Non voglio le mani di Bassolino sull'aeroporto. Comunque, i costi per il rilancio potranno essere coperti dai 40 milioni di euro stanziati dal decreto Sblocca Italia, dal governo, che ha inserito il costo ad Amalfi, io devo dire mi limito a dire tra le opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia. Tra l'altro, 15 anni fa i terreni da espropriare per allungare la pista valevano 3.000 lire al metro quadro, adesso costano 30 euro al metro quadro, quindi costeranno di più. Costa di più allungare la pista. Opera indifferibile, urgente e cantierabile per il rilancio dell'economia. Allora, io spero, caro governatore De Luca, che lei si chiarisca l'idea su questo aeroporto, che abbassi la stima dei 4 milioni di passeggeri. Ne basterebbero 500.000 per iniziare, poi 1 milione e poi 1.500.000. L'applauso, diciamo, va alla la doppia personalità, in questo caso di De Luca, che prima era contrario, poi era favorevole, adesso è strategicamente importante per il rilancio della nostra economia. L'aeroporto di Ponte Cagnano, Salerno, Costa d'Amalfi. Faccio notare che quando uno sbarca lì non esiste un collegamento. Tu atterri a Salerno Ponte Cagnano, non ci sono metropolitane, ovvio, non ci sono servizi pubblici e nemmeno più i taxi che ti portano a destinazione. Allora, io adesso vado sul traffico, poi non abbiamo la startup, abbiamo un caso virtuoso che mi avviso oggi meglio anche della startup, e poi commentiamo il decreto sulle la decisione del Consiglio di Stato sulle banche popolari, che sospende quanto deciso dal governo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento Focus Economia. Allora, mi fa notare un ascoltatore che giustamente la TAV, l'alta velocità, arriva a Salerno, quindi a sto punto che cavolo ce ne facciamo dell'aeroporto, visto che c'è a Napoli un bellissimo aeroporto, capo di chino, c'è l'alta velocità che arriva fino a Salerno, ma dai ragazzi, su. Ma per favore, strategico per il rilancio dell'economia del sud. Allora, buona notizia invece della startup. Perché? Perché è stato assolto, e devo dire che è una gran buona notizia, quindi mi espongo, è un giudizio mio, Diego Lorenzon. Chi è Diego Lorenzon? È il proprietario di Pool Meccanica di San Michele al Tagliamento. Che cosa è successo? È stato anche, lo dico così, presidente dell'Unione Industriale di Venezia. Non ha pagato l'IRPEF nel 2012. Perché? Perché ha detto, lui gestisce l'azienda con due fratelli, ha cercato di fare il tutto per tirare avanti e portare denaro all'impresa, ha venduto le collezioni storiche, ha chiesto aiuto ai parenti, incassato le polizze pensionistiche, e per pagare i dipendenti ne ha 50, adesso l'azienda è migliorata. Lui rifiutò di pagare l'IRPEF nel 2012, disse sostanzialmente, viste le difficoltà in cui versavo tra il 2009 e il 2012, i decreti ingiuntivi che arrivavano dagli avvocati dei fornitori, io ho preferito saldare i debiti e avevo già pagato già 7 milioni di euro di tasse in 10 anni, nonché il 30% di sanzioni per ritardi, e lui è stato rinviato a giudizio. Il giudice ha assolto l'imprenditore, dopo pochi minuti concesse il PM all'avvocato difensore, perché il fatto non costituisce reato, e voglio dire, no? E allora il nostro Simone Spezia ha raggiunto la sorella Paola Lorenzon, che è amministratrice comunque di Pool Meccanica. Noi in questo momento stiamo lavorando per il MOSE di Venezia, abbiamo lavorato per l'allargamento del canale di Panama, siamo presenti in al Centro America, siamo presenti in Africa. Nasciamo nel 1573, è un'azienda storica assolutamente che si tramanda da parecchi anni. Certo. Abbiamo fatto una scelta, credo, consapevole di quello che poteva venire, nella lealtà e nella correttezza di quello che ci hanno insegnato chi ci ha lasciato come grande eredità, no? Fare, sì, l'imprenditore per noi significa essere un leader, portare a gestire la propria azienda, portarla avanti nel migliore dei modi, saper trasmettere a colori che ci sono vicino, i veri valori, comunque l'onestà, la lealtà, l'amicizia, la sensibilità. Quel passo che abbiamo fatto di voler era un dovuto. Quello che ci era posto davanti era avere poco denaro e doverlo gestire, no? I dipendenti non potevano aspettare, ci sono monorediti che hanno un unico stipendio, per cui non era possibile farli aspettare, i fornitori che erano storici e che ci hanno creduto, non potevamo assolutamente abbandonarli portando i libri in tribunale. L'unica cosa che abbiamo scelto con tutta onestà è chiedere allo Stato se poteva rateizzare in pratica questo debito che noi avevamo. E vi è stato risposto cosa? Lo Stato ci ha concesso questa rateizzazione, il 30% di sanzioni, il 7% di interessi, quindi lo stiamo pagando e pagando profumatamente. Beh, c'è un giudice in Danimarca, diciamo, su questo, perché ci mancherebbe anche che uno che salvi i dipendenti con famiglia e monoreddito, paga i fornitori, rateizza l'IPEF dovuta e ci paga sopra il 30% di sanzioni per i ritardi, oltre che il 7% di interessi, per cui lo Stato ci guadagna, ma ci mancherebbe anche che un imprenditore del genere venga sanzionato. Fatto benissimo il giudice a assolverlo, ma stiamo scherzando, ma dovrebbe essere automatico che prioritario il mantenimento del reddito. Cosa lo fai? Fallire, che tanto poi i soldi non te li dà e mandi a casa le famiglie? Per poi spendere i soldi per l'aeroporto di Salerno, magari? Visto che qua parliamo di una cifra quasi analoga, definito strategico per lo sviluppo dell'economia del nostro mezzogiorno? Qualcuno qui grava onestà, ma che onestà? Serietà, basterebbe la serietà. Comunque, non mi devo scaldare. La borsa è chiusa invariata e tanto la borsa la commenteremo lunedì dopo il referendum. Comunque andrà, vinceranno i sì, vinceranno i no, noi saremo qua a commentarla. Media 7 più 3,60, Snam più 1,80, Telecom più 1,60, Recordati più 1,60, fronte opposto Monte dei Paschi meno 5,40 e UBI Banca meno 4,60, Saipem meno 2,90, Exor meno 2,50. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Purtroppo poco tempo, ma vorrei capire l'impatto della decisione del Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare le misure attuative per trasformare le popolari in SPA. L'ho spiegata bene prima, in maniera estesa, molte banche ci sono già arrivate, tra cui UBI, ha già effettuato la trasformazione senza versare i rimborsi a chi ha esercitato il diritto di recesso. Dice il Consiglio di Stato, no, sospendo tutto, si deve esprimere la Corte Costituzionale. Che cosa vuol dire questo per i processi di fusione tra banche popolari? Diciamo che inserisce un nuovo elemento di incertezza sulle banche, già ce ne sono tanti per i motivi che sappiamo, di cui parliamo tutti i giorni. In questo caso si potrebbe, nel caso in cui la Corte Costituzionale evidentemente condivida la posizione del Consiglio di Stato, si potrebbe riaprire la partita dei rimborsi, come dicevi, che sono di fatto avrebbero potuto essere una delle cause che avrebbero comportato delle spese enormi per le banche, perché non dimentichiamo per esempio UBI, questa è stata anche ed è uno dei motivi per cui sicuramente il titolo è andato giù oggi, è proprio certo, questa decisione del Consiglio di Stato. UBI aveva di fatto azzerato la possibilità di recesso dicendo che se avesse rimborsato quello che in teoria poteva rimborsare sarebbe sceso sotto i requisiti di capitale o comunque troppo vicino ai requisiti di capitale della Commissione Europea e della BCE. E il Consiglio di Stato dice però che qui si profila una incostituzionalità nei confronti. Dice due cose. Uno, che è possibile che sia incostituzionale prevedere un limite al recesso, ma soprattutto che non spetterebbe a Banca d'Italia stabilirlo, perché non dimentichiamo che chi aveva disciplinato il limite del diritto di recesso è stata la Banca d'Italia con una circolare emanata proprio dopo la riforma. Quindi in sostanza questa circolare è bloccata, e questo non è rilevante ad esempio per le ultime due banche che devono trasformarsi, cioè Popolare Bari e Popolare Sondrio, che hanno l'assemblea di qui a Natale. Quindi è sospesa la validità di quella circolare, mentre... Non potevo uscire prima il Consiglio di Stato, perché adesso ci sono due banche che entro Natale devono trasformarsi in SPA. Io mi chiedo cosa faranno, perché tu devi valutare anche qual è il costo di questa, perché se ha ragione il Consiglio di Stato... Beh sì, nel caso della Popolare di Bari ad esempio hanno stabilito come valore di recesso 7,50 euro, sapendo che avrebbero potuto limitarlo. A questo punto non c'è alcun limite in vigore, la banca viene valutata 1 miliardo e 200 milioni di titoli illiquidi. Beh, qualche socio che magari pensa di fare un recesso in più rispetto a prima, magari capito, c'è. Hai detto una roba da niente. Comunque i tempi sulla consulta li sappiamo? Sì o no? No, assolutamente, lunghi. Perfetto, non tanto i mercati possono attendere, e anche le fusioni delle banche popolari, è un paese bellissimo. Allora, grazie anche a Marco Ferrando, noi ci sentiamo, per chi avrà la voglia di ascoltarci, da domenica sera alle 23 con la lunga diretta, intanto, e poi lunedì dalle 17 con Focus Economia. Intanto ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione in studio. Ho sbagliato, è vero, un giudice è a Berlino, non in Danimarca, in Danimarca c'è solo del marcio. E auguro a tutti voi un buon fine settimana, a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, libera la voglia di fare.